con Paolo Cardinali del collettivo Fanzilla per parlare della Fanzilla Fest a Roma dal 20 al 22 settembre 2019. Paolo, ben trovato. Bentrovati a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao. Cos'è il collettivo Fanzilla? L'idea di fare questo festival nasce 4 anni fa, perché il festival è la quarta edizione, e nasce da piccoli appassionati di fotografia e di editoria. Nel caso specifico, io, Paolo e Daniele Alessandro, tutti e tre abbiamo delle piccole etichette, super indipendenti, micro etichette di editoria fotografica che costruiscono delle fanzine fotografiche. I nostri marchi sono Fugazzin e Monkey Photo. Da noi è partita in qualche modo l'iniziativa di raccogliere altri appassionati di editoria fotografica indipendente e costruire un momento in cui condividere queste esperienze. Da quest'idea è nato appunto 4 anni fa un primo festival che facemmo in un'associazione fotografica che stava al Pigneto. E poi, siccome questo movimento di microeditoria collegato alla fotografia è in fase anche di espansione, in questo momento insomma raccoglie adesioni crescenti, ci siamo spostati in uno spazio più grande che è quello della Casa della Cultura di Villa De Santis, quindi uno spazio verde anche molto bello all'aperto tra Tor Pignattara e Centocelle, e da 3 anni facciamo questo festival in questi spazi qui. Essenzialmente si tratta di una 3 giorni nel quale noi abbiamo raccolto l'adesione per quest'ultimo festival di più di 100 espositori che provengono da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo, che interverranno chi direttamente, quindi portando le proprie fanzine fotografiche sui banchetti del festival, oppure altri, soprattutto diciamo, gli esteri, inviandoci il loro materiale che noi metteremo a disposizione, sia per sfogliarli e vederli, ma chiaramente anche per acquistarli, queste produzioni fotografiche. Quindi noi allestiamo un banchetto collettivo per chi non è potuto venire a Roma con le produzioni che ci sono arrivate per posta. Materialmente come sarà strutturato il festival e quali sono gli orari? Materialmente il festival è spalmato su 3 giorni, inaugura venerdì 20 alle 18 per chiudere alle 22, e nella giornata di venerdì, perché il festival oltre ad essere appunto un mercato, nel senso più nobile, di queste piccole produzioni fotografiche, di queste produzioni fotografiche, è arricchito anche da incontri, talk, laboratori. Quindi venerdì inauguriamo il festival e ci sarà anche un incontro con Samantha Marenzi, che è un'insegnante, docente di fotografia, che farà un incontro tra fotografia ed esperienza mistica, una cosa secondo me molto interessante, e qui invito tutti perché tra l'altro Samantha è veramente una persona diciamo, da ascoltare. Ecco. E quindi venerdì 18-22, il sabato apriamo la mattina alle 11 per chiudere anche il sabato alle 22, e ci saranno altri 2 incontri, uno con Gaetano De Crecchio, che è un fotografo artista abruzzese che lavora con il libro d'autore, quindi costruendo delle vere e proprie opere uniche, fotografiche, ma con interventi manuali, insomma abbastanza. E poi dopo Gaetano c'è un incontro gestito e coordinato da Sabrina Ramacci, che mette insieme 4 tipografie indipendenti che lavorano sulla stampa, non solo fotografica, secondo diciamo, metodi tradizionali, e le fotografie sono l'Anonima Impressori, Atelier Insignia, Else Edizioni di Roma, Rizzografa, ancora di Roma, e l'Allegatoria. Queste 4 realtà che fanno tipografia tradizionale e artistica, e saranno intorno a un tavolo coordinati da Sabrina Ramacci a parlare della loro esperienza. La domenica apriamo sempre alle 11 di mattina e alle 20 contiamo di chiudere, e anche in questa giornata ci sarà un incontro con Claudio Corrivetti, che è forse il primo editore romano, comunque un editore romano storico di editoria fotografica, che ha fondato ormai 25 anni fa la casa editrice Postcard, e quindi abbiamo invitato Claudio per parlare di questi 25 anni attraverso storie, aneddoti, retroscena della sua esperienza di creatore di libri fotografici. In tutte e tre le giornate, chiudo per quanto riguarda il programma, in tutte le tre giornate poi ci saranno delle tavole rotonde nelle quali gli espositori del Fanzilla Fest parleranno delle loro produzioni, perché abbiamo ritenuto che di valorizzare le persone che vengono al festival a mostrare le loro fanzine fotografiche. Quindi durante la tre giorni ci saranno queste tavole rotonde organizzate in maniera tematica, quindi a secondo dell'argomento del quale parla la fanzina fotografica, e in queste tavole rotonde gli autori e le autrici parleranno della loro fanzine o della loro etichetta di produzione fotografica. Ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Sì, assolutamente. Allora, il sito principale è fanzillafest.com. Andando sul sito troverete chiaramente le varie sezioni a partire dal programma, ma poi c'è la lista completa degli espositori e degli incontri. Ecco, scusa, aggiungo solo una cosa che ho dimenticato, ma in realtà poi i laboratori sono pieni, sono full, però faremo anche nella giornata, è già in corso un laboratorio di zine making, quindi di costruzione di una fanzine fotografica a cura di Sara Palmieri, che è iniziato la scorsa settimana ed sarà finalizzato nella giornata di domenica con la presentazione della fanzine prodotta durante questo laboratorio. E poi nella giornata di sabato mattina ci sono dei workshop di legatoria che sono fatti in collaborazione con l'Atelier delle Piccole Virtù, che è una realtà di legatoria tradizionale, che farà all'interno del Fanzilla Fest dei laboratori brevi per le prime, per avvicinarsi al mondo della legatoria. Quindi dicevo, fanzillafest.com, il contenitore in cui trovate tutto, e poi ci sono le nostre pagine social, c'è la pagina Facebook del collettivo Fanzilla, che è facebook.com/fanzillafest, e c'è collegato anche un account Instagram, ma non mi dire come si chiama perché non me lo dico, non lo so, ma comunque Fanzilla Fest trovate anche l'account Instagram, che è gestito dagli altri amici del collettivo, che sono più vicini alla realtà dei social, ecco. Quarta edizione del Fanzilla Fest a Roma dal 20 al 22 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Cardinali del collettivo Fanzilla. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, vi aspettiamo a Fanzilla Fest, perché è anche un'occasione molto divertente, molto informale, quindi è un modo pure per passare, a prescindere dalla passione per la fotografia o per l'editoria, per passare una bella giornata. Ricordiamo Casa della Cultura di Villa De Santis. Un abbraccio e a presto. Anche a voi, anche a te. Ciao, buon lavoro, buona trasmissione. Ciao, ciao.